as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, eccoci di nuovo qui. Oggi a Il Pane Rose di nuovo parliamo di lotta operaia, di lotta di fabbrica, diciamo, che può essere un simbolo per tutti noi metalmeccanici. Parliamo della fabbrica di Pomigliano d'Arco, dell'FCA. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato questo viaggio con Mimmo Loffredo, delegato della FIOM, che ci ha parlato di quello che sta accadendo all'interno della sua fabbrica, delle lotte, di come sono riusciti a cambiare la situazione in fabbrica per quanto riguarda i rapporti di forza, come la FIOM sia riuscita a riconquistare una bella fetta di lavoratori che aveva perso negli anni in cui ci fu il CCSL, gli anni di Marchionne, la batosta presa enorme dalla FIOM in Fiat. Ora, oggi parleremo invece più che altro di rapporti sindacali che sono importanti, delle aziende dell'indotto, di chi in realtà parleremo di chi si occupa di servizi e parleremo anche di come i compagni di Pomigliano vogliono affrontare il futuro, di come vogliono continuare la lotta. Chiaramente loro non ci diranno la tattica. Sono anche contento, vuol dire che questa trasmissione è abbastanza seguita, se non possono svelarci le tattiche future di lotta, no? Avete letto i giornali, avete visto che adesso stanno facendo diverse ore di sciopero, giornate intere, cortei all'interno della fabbrica, insomma, che hanno fatto molto scalpore, soprattutto nel mondo dei social, i video. Mi è arrivato prima il video del corteo in fabbrica che la notizia dello sciopero, pensate voi, sono rimasto colpito. Ecco, insomma, sentiamo Mimmo cosa ci racconta e ci spiega un po' in realtà quello che sta accadendo all'interno, sul piano sindacale e di quello che penseranno di fare per il futuro. A dopo. No feo sin cento, baiso astro mudo, batendo asas, una noite calada, venien en bandos con pez de veludo, chuparo sangue fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas, traenos el ventre de esposos antiguos, mas nada os prende las vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Allora, la domanda che ti volevo fare è la mia curiosità principale sul piano sindacale. Da quello che ho letto, da quello che mi hanno raccontato, da quello che ho letto anche di quello che hai scritto tu, insomma, mi pare, se non mi sbaglio, che lo sciopero è stato indetto da FIOM e Slay Cobas. Io, sai, vengo dal centro-sud, dalla zona anche dove provengo io, sappiamo che lo SLAI è il sindacato più combattivo in fabbrica, soprattutto in Fiat. La FIOM però la fa da padrone a Pomigliano. Ma FIM e CISL? Io ho letto un trafiletto in cui la FIM diceva sì, anche noi siamo preoccupati, però non mi pare che stiano a livello ufficiale aderendo allo sciopero. Poi volevo capire se i lavoratori iscritti alla FIM e alla CISL, che comunque sono in quell'ambiente, stanno partecipando, perché è importante, se non c'è una unione per quanto riguarda le sigle, ma bisogna che i lavoratori non so se sono, vengono coinvolti oppure sono lasciati coinvolgere. Sappiamo come funziona in Fiat, eh? Volevo sapere da te su questo aspetto, sul piano sindacale. È come ti dicevo prima, Gianplacido, è frutto di un lavoro molto lungo. Se la FIOM oggi la fa da padrona, noi quando fummo cacciati fuori dalle fabbriche e dovettimo liberare le salette sindacali, scendemmo ad un numero di tesserati che era pari a poche decine di unità. Oggi nel corso di questi anni abbiamo risuperato quota 500 iscritti a Pomigliano, e il voto di fatto ci aveva consegnato una responsabilità, quella di dare conseguenzialità, diciamo, a quello che abbiamo detto in tutti questi anni, cioè noi non firmiamo questo CCSL e non lo firmiamo perché riteniamo che quella sia la tomba del sindacato. Ed è su questo aspetto che la risposta che ti posso dare su FIM e WILM e FISMIC e UGL, che sono, diciamo, le sigle sindacali che hanno sottoscritto quell'accordo, non hanno mosso un dito se non cercando di riparare. C'è stata tra l'altro una rottura tra di loro, e di solito escono con comunicati unitari. In questo caso la FIM sì, ha fatto una dichiarazione, insomma, di contrarietà a quello che sta avvenendo in particolare al montaggio Panda. Dopodiché a me sembra più un tentativo di riparare, insomma, il danno fatto, nel senso che queste cose, come ti dicevo, non è che è la prima volta che accadono, e quasi sempre c'è stato un silenzio assordante da parte di queste organizzazioni. Ovviamente all'interno del CCSL loro non possono scioperare, quindi non partecipano in maniera diciamo chiara agli scioperi, perché non possono farlo. Hanno aperto una procedura di clausola di raffreddamento che prevede comunque dei tempi lunghissimi prima che loro potessero mettere in campo delle iniziative magari di sciopero, cosa che però in tutti questi anni io non ho mai visto fare, cioè nel senso ogni tanto si richiama questa procedura di raffreddamento, l'apertura di questa procedura di raffreddamento, ma quasi sempre poi finisce in nulla di fatto, perché se passano 15 giorni da un problema è chiaro che ormai i lavoratori stanno lavorando magari da 15 giorni con una cadenza più alta o con altri tipi di problemi, e a quel punto, diciamo, fare sciopero dopo 15 giorni oggettivamente è fuori luogo, insomma. Quindi niente, gli scioperi sono guidati dalla FIOM, c'è un forte protagonismo operaio, perché chiaramente senza di loro non si può fare molto. C'è sì lo Sly Cobas, che è presente ancora con qualche iscritto, e tra l'altro negli ultimi tempi, visto che lo stabilimento, se ti ricordi bene, era diviso tra Pomigliano e Nola perché fu fatto una specie di reparto confino. In quel reparto a Nola negli ultimi anni, insomma, sono rimaste solo la FIOM e lo Sly come rappresentanze sindacali, diciamo, forti, tant'è vero che già alle altre elezioni, quindi non le ultime, la FIOM ebbe un consenso molto, molto forte. Lo Sly non partecipa alle elezioni, quindi non so dirti, diciamo, non so dirti che hanno degli iscritti, non tantissimi, ma insomma sono presenti in fabbrica, e loro comunque in uno sciopero di massa così ampio chiaramente si sono accodati ai cortei, e ovviamente poi hanno rivendicato anche questo come uno sciopero fatto e partecipato anche da loro, giustamente. Però l'organizzazione, insomma, sta tutta in mano a noi della FIOM, che di fatto siamo ben presenti nel quotidiano con i lavoratori, siamo sui problemi da ormai un bel po' di tempo, e di fatto, diciamo, questo ci è stato riconosciuto nelle ultime votazioni, ma ci viene riconosciuto, insomma, anche con il tesseramento che, come ti dicevo prima, ha avuto una forte impennata negli ultimi anni. E niente, queste sono le dinamiche sindacali che sono presenti all'interno dello stabilimento. Gli altri sindacali di fatto sono alla finestra, se non a volte addirittura cercano di metterci i bastoni tra le ruote, perché ci sono alcune situazioni in cui, per esempio, negli scioperi dei delegati provano ogni tanto a convincere qualche lavoratore a non partecipare. Ma nonostante questi sforzi che loro mettono in campo, diciamo, hanno perso quasi del tutto la fiducia da parte dei lavoratori, E questa cosa si traduce in un fatto che quando loro poi fanno questo tipo di attività, cioè cercano di bloccare gli scioperi, diventano ancora più ulteriormente invisi, ai lavoratori, e di certo questa cosa non li favorisce nel cercare di recuperare un rapporto con loro. La loro attività sindacale si basa, come dicevo prima, nel recepire le comunicazioni aziendali, mandare dei messaggini. E ogni tanto, diciamo, far vedere che si prova a dire qualcosina di diverso, ma fondamentalmente il peggioramento delle condizioni di lavoro sta lì a testimoniare degli ultimi anni, degli ultimi 10 anni, insomma, sta lì a testimoniare che la loro attività sindacale di fatto non è stata utile ai lavoratori e non ha portato a loro nessun tipo di beneficio. Inizialmente loro firmarono quel tipo di contratto dicendo che almeno sarebbe arrivato il lavoro. Dobbiamo dire che dal 2008 ad oggi è ancora presente la cassa, o la cassa integrazione, o il contratto di solidarietà, o comunque ci sono sempre gli ammortizzatori sociali presenti dal 2008 ad oggi, senza, con una continuità che va avanti da allora, e sicuramente, diciamo, questo è un ulteriore elemento che dimostra che quando si diceva firmiamo il CCSL per portare il lavoro a Pomigliano si sbagliava. E noi come FIOM diciamo guardate che la Panda da sola non basta a garantire i volumi occupazionali che bastano per tutti i lavoratori di Pomigliano, tant'è vero che oggi abbiamo la Panda e il Tonale e abbiamo ancora no, più di 900 persone collocate in contratti di solidarietà, quindi fondamentalmente non siamo ancora riusciti a saturare da un punto di vista lavorativo, pure perché l'efficienza che continua a fare l'azienda. Mentre si cerca di recuperare, mentre arriva un'altra vettura, si riapre una catena di montaggio, ma allo stesso tempo le postazioni, diventano sempre di meno, i lavoratori, quindi che impiegati per fare determinati tipi di attività, sono sempre di meno e di conseguenza, diciamo, continuano ad esserci degli esuberi strutturali secondo il loro punto di vista. Secondo noi, insomma, invece questi potrebbero essere ricollocati tranquillamente, pure perché l'azienda in questi mesi sta addirittura chiamando a lavorare trasfertisti da Melfi, da Cassino per sopperire a determinati tipi di mansioni da svolgere. Quindi questo dimostra che è tutta una questione di volontà da parte dell'azienda di non voler cedere, insomma, al fatto di fare un maggiore efficientamento e quindi magari un RCL non riuscirebbe a fare una postazione completa, ma magari solo parziale in catena e quindi preferiscono prendere qualcuno che viene da un altro stabilimento che invece sia ancora sano per fare quel tipo di mansione e quindi per mettere meno lavoratori nel processo di produzione. Questo è quello che sta accadendo a Pomigliano e questa è la situazione sindacale. Di fatto ci siamo noi e poi c'è un sindacato che è il megafono dell'azienda. Terza e ultima domanda, ti volevo chiedere per quanto riguarda l'FCA Servizi, ho letto che anche loro sono in mobilitazione, come si sta unendo questa lotta di questi lavoratori con voi e soprattutto come pensate di andare avanti, perché insomma state scioperando, state bloccando le linee, lo sa tutta Italia, l'FCA se ne sta rendendo conto. Anche insomma, è importante il danno che state facendo. I cortei interni in fabbrica sono stupendi, io li amo da morire. Però, che avete pensato di fare? Se me lo puoi dire, altrimenti fammi capire insomma, che intenzioni avete. Molto probabilmente è chiaro che le strategie in fabbrica sono spesso strategie che devono rimanere insomma, all'interno dell'RSU. Perché comunque non bisogna dare un vantaggio all'azienda, però se avete intenzione di cambiare modalità di lotta, se volete trasportare la lotta su un altro piano, insomma, conoscendovi sappiamo che avete tanta, insomma, sapete, siete molto innovativi per quanto riguarda le lotte e ci aspettiamo di vedere queste lotte che crescano e se hanno anche intenzione di diventare qualcosa che riguardi un po' tutti gli stabilimenti FCA, perché non dimentichiamo che il vostro problema non è solo il vostro, ma ci sono tanti altri stabilimenti in cui i ritmi sono insostenibili, in cui si chiede ai lavoratori di lavorare oltre le proprie possibilità di salute. Insomma, ecco, poi ti salutiamo, Mimmo. Questa è l'ultima domanda che ti facciamo e comunque ti facciamo in bocca al lupo per tutto. Ciao. E in bocca al lupo per la lotta soprattutto. Sulla questione FCA Service, diciamo che loro hanno fatto un secondo sciopero nel giro di pochi mesi. C'è una situazione molto particolare che di fatto una buona parte di questi lavoratori è stata assorbita e sta facendo comunque o farà comunque delle attività legate a CNH e ad altri partner del gruppo Stellantis, mentre non si sa per quale motivo, non si sa per quale ragione dei 48 collocati a Pomigliano solo 28 di loro verranno venduti ad un'azienda che ha sede alle Bahamas e che fondamentalmente non dà garanzia a questi lavoratori, che di conseguenza hanno deciso di mettere in campo delle iniziative di lotta. C'è stato un esame congiunto proprio nei giorni in cui noi stavamo scioperando in fabbrica. È sicuramente una cosa sentita, ci sono alcuni lavoratori che ovviamente più sensibili che ci chiedono comunque di notizie, di sapere e sicuramente di non far passare il principio che l'azienda la sera alla mattina può terziarizzare dei rami d'azienda, insomma così senza colpo ferire. Ovviamente fa parte di quelli più sensibili, diciamo, a determinate tematiche, però cercheremo sicuramente di fare il possibile per sostenere quei lavoratori e cercheremo soprattutto di tenere insieme le lotte per quello che ci è possibile, insomma, in questa fase. Su cosa metteremo in campo? Chiaramente non posso dichiarare tutte le strategie possibili. Sicuramente abbiamo deciso già di cambiare il modus operandi per una questione molto semplice, che non è che possiamo chiedere ai lavoratori di scioperare 8 ore continue tutti i giorni. È chiaro che questa cosa ha un impatto in una fase in cui l'inflazione è quella che è e quindi sicuramente, diciamo, al di là di quello che è stato l'aumento salariale di cui mi chiedevi prima, che poi non ti ho risposto a quella domanda, sì, l'aumento è stato sicuramente rispetto al contratto collettivo nazionale, diciamo, bello sostanzioso. Dopodiché comunque quell'aumento va a recuperare l'ultima fase inflattiva, ma di certo, diciamo, in questi anni noi abbiamo subito tantissimo diciamo, l'inflazione, e il recupero salariale dovrebbe partire da molto più indietro. Non è un caso che noi chiedemmo a dicembre, quando fu dato un premio, diciamo, ai lavoratori francesi proprio per dare risposte alla questione dell'inflazione, noi chiedemmo anche da noi una mensilità così aggiuntiva, giusto per ripagarci di tutto quello che non c'era stato dato negli anni precedenti, e l'azienda comunque rispose che non era minimamente interessata a questo tipo di ragionamenti. Quindi su questo aspetto, diciamo, sì, dobbiamo per forza di cose trovare dei modi per far sì che le perdite salariali dei lavoratori siano minime, ma le perdite invece di produzione dell'azienda siano massime, e troveremo sicuramente dei modi per farlo. Poi c'è l'altro obiettivo, che è quello di far emergere questo tipo di problema anche al di fuori dello stabilimento, perché sì, se ne sta parlando, ma ti posso assicurare che c'è un veto su tanti giornali, per esempio locali, di non dare molto risalto a questo tipo di notizie, perché comunque la Fiat da questo punto di vista è diventata molto più forte, molto più potente. Stellantis, diciamo, comunque riesce ad esercitare una grossa pressione su tanti organi di stampa. Noi stiamo sicuramente pian piano riuscendo a rompere questo silenzio, ma probabilmente studieremo un modo per far sì che che i lavoratori e le loro rivendicazioni escono anche al di fuori di quei cancelli, pure perché ce n'è una grossa necessità. Ultimo punto, ma non per questo, diciamo, meno importante, anzi, è quello delle risposte a livello di gruppo. È chiaro che noi rivendichiamo la volontà che questo tipo di lotte che noi stiamo mettendo in campo siano uguali dappertutto. Non sono uguali dappertutto le condizioni, non dappertutto la FIOM riesce a mettere in campo delle iniziative del genere. Mirafiori negli ultimi tempi ha messo in campo degli scioperi. Noi ci auguriamo, insomma, che i compagni, sulla base di quello che sta accadendo a Pomigliano, anche in altri stabilimenti, mettano in campo delle iniziative che di fatto devono mettere in crisi questo contratto collettivo specifico. Per noi questo è un obiettivo, anche se è difficile da raggiungere, ma è l'obiettivo che noi ci stiamo dando. Oltre che migliorare quindi le condizioni di lavoro, secondo noi per farlo dobbiamo anche mettere in discussione questo tipo di contratto. Bisogna ritornare alla contrattazione aziendale, cioè se c'è un aumento di produzione, se c'è un aumento dei turni, se c'è un aumento, cioè se c'è un peggioramento delle condizioni, i lavoratori devono poter rivendicare le proprie idee, devono poter migliorare le proprie condizioni in fabbrica, devono poter migliorare anche il loro salario. E tutto questo con il contratto collettivo specifico non è minimamente previsto. Quindi la battaglia è di tutti i lavoratori del gruppo Stellantis in Italia, e noi ci auguriamo, insomma, e probabilmente rivendicheremo anche che in tutto il gruppo ci sia una risposta, ovviamente per quelle che sono le forze in campo e per quelle che sono le condizioni dei singoli stabilimenti, perché non possiamo pensare che basta fare sciopero a Pomigliano per far sì che, magari, dico per dire, a Melfi si riesca a ripetere la stessa attività che stiamo mettendo in campo. Quindi questa è una cosa che devono poi i compagni dei vari stabilimenti, insomma, recepire e provare, insomma, a darci un sostegno, perché solo così possiamo provare a cambiare un po' quello che è lo stato attuale delle cose. Sconfiggere il CCSL, sicuramente quello che stiamo facendo a Pomigliano è molto importante, ma se magari questa cosa invece diventasse una battaglia nazionale, e lo è negli intenti, però poi se si riesce veramente a mettere in campo delle iniziative in cui si rivendicano di nuovo i 40 minuti di pausa, come abbiamo fatto per esempio sulla questione del montaggio, magari tutti gli altri riescono a farla diventare una battaglia nazionale. Io diciamo me lo auguro, ma questa è una discussione che dovrà essere fatta anche nei coordinamenti Stellantis della FIOM nazionale, e cercare di capire, insomma, quali sono le condizioni e dove si potrà magari mettere in campo delle iniziative di sostegno a quello che stiamo facendo noi a Pomigliano. Questo è quanto, io ti saluto, ti ringrazio, perché come ti dicevo, diciamo, per noi è importante anche far uscire fuori, far emergere quello che sta accadendo in quella fabbrica, e spero di aver soddisfatto, diciamo, le tue curiosità da militante, da lavoratore come me, e insomma arrivederci a presto, magari se la lotta continua e va bene, magari avremo modo di risentirci. Un abbraccio, ciao a tutti. Ci stanno umiliando senza pietà, calpestano il lavoro e la dignità. Fabbriche come caserme e polizia, questa è la loro democrazia. Da Padania disprezziamo il tricolore, rifiutiamo. La sola cosa che rimane da fare, ribellarsi e cominciare a lottare. È ora di alzare la testa, tempo di dire basta. La nostra bandiera è la rossa, classe operaia alla riscossa. È ora di alzare la testa, tempo di dire basta. Allora, siamo arrivati alla fine con una bellissima canzone della banda popolare dell'Emilia Rossa. Ricordiamo a tutti che presto avremo qui in radio, spero in Unplugged dal vivo, ci suoneranno qualche pezzo i compagni della banda popolare dell'Emilia Rossa, amici e fratelli del Panele Rose, compagni di battaglie. Io con i compagni della banda popolare dell'Emilia Rossa faccio lotta sindacale da diversi anni. Per questo l'invito spesso, ogni volta che c'è un nuovo album, cioè hanno qualcosa da raccontarci, insomma. La prima puntata l'abbiamo fatto proprio parlando di Ferrari insieme al bassista della banda popolare Emilia Rossa, ormai sono 2 anni del Pane delle Rose. Allora, avete ascoltato Mimmo, quello che ci ha detto, insomma. Chiaramente la battaglia pomigliana è in evoluzione, ci saranno nuove forme di lotta, cercheranno di estendere, io spero che ci riescano in tutti gli stabilimenti, spero che la FIOM organizzi gli altri stabilimenti in solidarietà ai compagni di Pomigliano e la battaglia sia unica. Spero che De Palma, visto che è stato riconfermato come segretario, visto che ha seguito la Fiat per tanti anni, e l'automotive è comunque ancora lui, è dietro l'automotive, sappiamo benissimo l'importanza che riveste per lui questo, speriamo che riesca a coinvolgere tutti gli stabilimenti FCA in un grande sciopero, io me lo auguro. Però avete sentito Mimmo quello che ha detto? La cosa che mi ha davvero lasciato senza parole è il fatto che chiedono più macchine tenendo 900 persone in solidarietà o in cassa integrazione. E io penso al compagno di Luca, che dal 2010 che è in cassa integrazione. Sto pensando a lui, che è stato tra quelli che durante le giornate di Pomigliano è stato il delegato della FIOM più combattivo, comunista, riconosciuto come uno dei comunisti più intransigenti di Pomigliano. E la sta pagando, come lui tanti compagni. Chi si è stato messo al confino, no, l'avete sentito? Islay Copas, FIOM. E lui che è a casa da allora, sono 12 anni che è a casa, eppure chiamano trasfertisti da Melfi, da Cassino, e non tengono la gente in cassa integrazione e chiedono più macchine. Ora io penso che questo sia inaccettabile, penso che sia una vergogna che l'Italia permetta una cosa del genere, perché ricordatevi che la solidarietà, la cassa integrazione la paghiamo tutti quanti noi. Però poi chiamano i trasfertisti e poi chiedono più macchine, tengono gente in cassa integrazione. Questa è una vergogna, è una vergogna. E che i comunisti siano quelli che più pagano il dazio e che vengono messi ai margini, emarginati, io penso che sia una vergogna. Cioè, queste cose succedono in Italia e in Ucraina. Scusate se faccio un esempio, però è vergognoso. Mi dispiace, però sono anche contento, mi spiace per i compagni che sono ancora a casa, che non riescono a ritornare. Io spero che questa lotta serva per far tornare questi compagni. L'avete capito, le parole di Mimmo. Non è possibile. Ci chiedete più macchine, noi vogliamo che tutti i nostri compagni ritornino a lavorare. E non ci fate massacrare le ossa a noi. Abbiamo tanti lavoratori che aspettano di tornare a lavorare. Ci sono più macchine da fare, devono esserci più persone a lavorare. Questa è una rivendicazione di tutte le fabbriche metalmeccaniche. Quello che succede a Pomigliano non si deve verificare in nessuna azienda in Italia. Ecco, questa è la nostra lotta, è la lotta di tutti. Pomigliano è la lotta di tutti, non solo del gruppo Fiat, ma di tutti gli operai metalmeccanici. E spero che questa lotta riesca e si estenda il più possibile. Un saluto a tutti i compagni, sempre al fianco dei compagni Pomigliano e tutti di quelli che lottano tutti i giorni nelle fabbriche. Orgulloso de estar. ¡Orgulloso!